prendimi così come sono, così come vengo, così come perdo. Seguimi nel gelo d'inverno, nel peso allo sterno, nel fuoco d'inferno. Cercami lontano da casa, perdendo la strada, giocando col tempo. Trovami al limite appeso, con l'ultimo scemo, oltre al sottinteso. A cuor leggero, l'amor leggero sono io per te, amor leggero sei tu per me, l'amor leggero scende. Show.